Ciao a tutti! Oggi è 8 marzo 2014. Questo è un giorno speciale perché è il Giorno Internazionale della Donna. Tanti auguri, carissime! Che Dio vi benedica grandemente e che ogni giorno sia di felicità per tutte quante voi. Adesso cerchiamo i giudici 3:11 nella nostra Bibbia. Il paese aveva riposo per 40 anni. Poi Otniel, figlio di Kenaz, morì. Il personaggio d'oggi è Otniel. La presenza di un uomo di Dio può cambiare la circostanza di vita di un popolo. La preghiera di un giusto è sufficiente per cambiare la strada di una storia. Non importa la situazione, un uomo di Dio è maggioranza ed è un potere impossibile di dominare per il nemico. Il popolo di Israele si era deviato dalla strada del Signore, andando verso altri dei. Per 8 anni il popolo di Dio fu umiliato per un popolo senza Dio. L'illusione di avere potere e piacere può durare un paio d'ore, di giorni, forse d'anni. Nel caso del nostro personaggio, 8 anni. Ma arriva un momento in cui la schiavitù a queste cose dà fastidio. Più che la discussione storica e teologica che si stabilisse per l'origine di Otniel, il suo rapporto con Caleb e i dettagli della sua biografia, certamente la consacrazione di quest'uomo ha fatto la differenza per trovare la soluzione. Quando il popolo cercò a Dio, lui fa sorgere il liberatore, Otniel. Il sistema è sempre lo stesso, l'uomo clama a Dio, lui ascolta e risponde dando quello che l'uomo bisogna realmente. Dio poteva aver liberato dalla mano dell'schiavizzatore e aver lasciato libero il popolo per continuare a vivere nella maniera che credessero più adeguata. La probabilità di ricadere negli stessi sbagli, negli stessi peccati, sarebbero enormi. Dio ci ama tanto che ci regala insieme con la salvazione una soluzione per il nostro problema. Otniel per il popolo di Israele, Cristo per la tua vita. Mentre Otniel è vissuto, il popolo era in pace. Se lasci Cristo dominare la tua vita e indirizzare i tuoi passi, sarai in pace. In tutte e due le circostanze, i liberatori prima giudicano, poi ordinano e poi sistemano la situazione interna per dopo uscire alla battaglia. Non posso vincere il nemico se prima non lascio che il gran giudice dell'universo realizza il suo lavoro nella mia vita. Quando il processo finisce, puoi rimanere tranquillo, perché la pace sarà durevole. Grazie a tutti per l'ascolto, a Letler Equip per la traduzione e a Semeter Radio per la cortesia. Sono Ale Marin con la meditazione al mattino 365 vite. Vi ricordo che se volete inviare un saluto, un commento, potete inviare un messaggio alla nostra email it@semeterradio.com. Ci troviamo domattina e specialmente alle nostre bellissime donne vi auguro una bellissima giornata. Che una grandissima benedizione sia su tutte quante voi.